Buonasera, grazie per l'accoglienza, potete accomodarvi. Bello essere con voi in questa domenica di luglio. Non vi faccio la domanda, come state, salto tutti i preamboli, perché come capirete da subito, insomma, oggi parleremo del parlare. Questo gioco di parole, insomma, capiterà più volte, quindi vi chiedo scusa una volta, però ci deve stare. Parleremo del parlare, parleremo delle parole, parleremo della necessità di dover parlare o della non necessità di dover parlare. Quindi io salto tutti i preamboli e vado direttamente al nocciolo della situazione. Il parlare è una abilità umana che ci è stata data non perché Dio non sapeva che fare, ma siccome Dio ci ha creato a sua immagine e Dio è un Dio che parla, di conseguenza gli uomini parlano. Dio comunica, ecco perché noi uomini comunichiamo. Quindi, mettiamo in chiaro questo. Dio ci ha fatto un dono nel momento in cui ci ha creati a sua immagine, dandoci anche la facoltà del poter parlare. E se Dio ci ha dato questa facoltà, credo certamente che avrà dato anche delle indicazioni su come utilizzare il parlare, su cosa fare delle nostre parole. A noi piace parlare. Io dico che forse uno dei passatempi che più ci piace è dire le chiacchiere, fare le chiacchiere, è bello, è spassoso, è gioioso. Il nostro parlare può anche diventare un po' più serio, un po' più riflessivo, esponiamo pensieri, diciamo i nostri giudizi sulle cose, ci piace, non ci piace, è bello, non è bello. Non nascondiamo che a volte il nostro parlare diventa un po' più, insomma, pungente, un po' più ozioso, un po' più spregiudicato, insinuante. Ed è a quel parlare che daremo anche un po' di attenzione questa sera. Proverbi 10:19 dice: «Nelle molte parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è un saggio». Quando io leggo questo verso mi ritrovo molto, perché io sono uno di quelli che gli piace il silenzio. Anzi, è uno di quelli, ora ad esempio sbaglio nel parlare, però permettetemi in questa fase di gioco, a me la gente che parla un po' troppo non è che proprio rientra nel mio modello di persona, cioè non mi rispecchio, accetto, ci sto pure con quelle persone, però io credo che ci siano persone che parlano un po' tanto. Una volta dovevamo andare a mare, c'era questa estate un po' inusuale, le nostre estati da un po' di anni a questa parte sono inusuali, insomma ci ritagliamo il momento in cui andare a mare, perché la domenica al mare non si va. Cioè, io se non vado la domenica al mare, perché dovete andare voi al mare la domenica? Quindi state con me qui in chiesa. Allora, noi ci ritagliavamo, io, Luciana e Noemi, dei tempi per poter andare a mare. Quindi era fra i due incontri della mattina o della sera, oppure in settimana. E andavamo, in quell'estate abbiamo scelto Biceglie come nostra meta turistica da vacanza. Ed era una cosa, insomma, un'abitudine che si era costruita. Una volta io ero un po' stanco, ero un po' pensieroso. Avevo bisogno di silenzio. Quindi, tutti pronti per andare al mare, io entro nella mia bella macchina, avevo la Mini, con i sedili in pelle che raggiungevano 50 gradi, che non ti potevi sedere, stavi così, avevi anche questo fastidio. Ci sediamo, io entro e dico questa frase: oggi non ho voglia di parlare. Luciana, io faccio una storia un po' più lunga, la faccio breve, si trovava in accordo con me quella domenica, pure lei aveva un po' il piccio, e anche lei era un po' stanca, non voleva parlare, non voleva stare con nessuno. Qui Luciana era in accordo con me, l'unica persona un po' non propriamente in disaccordo, potete immaginare, era Noemi, che si sente dire una cosa del genere. Dice: beh, vabbè, così stiamo oggi, e vabbè, andiamo al mare. Arrivati a mare, succede questo, che Noemi si piazza qui, Luciana si fa mettere su uno scoglio almeno 10 metri di distanza all'ombra, da sola, io mi metto dall'altra parte, con le cuffie nelle orecchie, in maniera tale proprio a dire: io non voglio parlare, non voglio sentire niente. E Noemi lì. E è stato obbediente, per più di un'ora credo, non ha parlato. Io lì, Luciana lì, per i fatti nostri. A un certo punto Luciana è stata imperterrita, cioè da quando siamo arrivati a quando ce ne siamo andati è stata lì, giusto gli ultimi 10 minuti si è avvicinata un po'. Io a un certo punto ho sentito il rimorso, ma quella povera ragazza lì abbandonata sulla spiaggia, le persone che cosa penseranno? Perché poi si vedeva che lei era un po' insofferente, prendo il sole, vado alla riva, torno, faccio, invece io là, nella mia posizione strategica per poter prendere il sole da tutte le angolazioni, tolgo le cuffiette, le faccio capire, insomma, che potevamo scambiare qualche parola. Quindi io sono della categoria, stiamoci zitti. Quindi questo verso mi piace, cioè nelle tante parole molto spesso si cela la colpa addirittura. Ora, l'aneddoto è simpatico, la Bibbia mette in risalto qualcosa ed è vero, se ci facciamo caso, quando incominciamo a parlare tanto, noi incominciamo, che cosa hai mangiato oggi? C'è gente che è bravissima, che da cosa ha mangiato oggi riesce a parlare poi a un certo punto della pace nel mondo e non so, io non sono capace, cioè io metto il punto e poi incomincio un altro fatto. No, questa gente la collega bla bla bla bla bla bla bla bla, e arrivano e nel parlare molto spesso si dicono tante fesserie. È un po' esprimere il pensiero libero, ma quel pensiero libero poi a un certo punto lo consideriamo edificante per l'altro, lo consideriamo edificante anche per noi stessi, perché stasera ci concentreremo particolarmente anche su noi stessi. O probabilmente in quel troppo dire abbiamo parlato in un tono sbagliato, abbiamo criticato quella persona, abbiamo espresso un concetto, un giudizio che forse non era propriamente necessario nei confronti di una situazione, anche reale, vera, concreta. Ma la Bibbia, la parola di Dio, cosa ci insegna al riguardo? Io non credo che Dio si lamenti dei chiacchieroni come fa Luigi, però credo che Dio ci voglia avvertire. A dire attenzione ragazzi, attenzione, che in realtà controllate la lingua. Perché? Perché la Bibbia è molto chiara. Sempre in Proverbi 18:21 dice che morte e vita sono in potere della lingua. È assurdo pensare una cosa del genere, che io posso uccidere o posso dar vita con le mie parole. Facciamoci la domanda da soli. Com'è generalmente il nostro parlare? È un parlare di morte o un parlare di vita? È un parlare che distrugge, che abbatte, o un parlare che edifica? È un parlare che disillude o è un parlare che crea speranza? Queste sono le domande che ci dobbiamo porre sulla base del fatto che alla nostra lingua, alle nostre parole, è dato un potere eccezionale come quello descritto nella parola di Dio. Morte e vita. C'è un episodio nella Bibbia che mette chiaramente in risalto proprio questa contrapposizione. C'è qualcuno che parla morte e c'è qualcuno che parla vita. Lo leggiamo insieme, è un episodio molto conosciuto. Ho voluto scegliere tutto quanto il brano, però poi lo analizzeremo velocemente. Però è importante avere chiara tutta quanta la situazione. Quindi non vi distraete nella lettura, seguitelo anche sullo schermo. Perché è importante, insomma, poi beccare i punti salienti. Possiamo? Sì. E quando Gesù, siamo in Marco capitolo 5, dal verso 21 al verso 43. E quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò intorno a lui ed egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco, venne uno dei capi della sinagoga, di nome Jairo, e vedutolo gli si gettò ai piedi e lo pregò con molta insistenza dicendo: «La mia figliola è agli estremi. Vieni a imporle le mani affinché sia salva e viva». Ed egli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni e aveva molto sofferto da parte di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun giovamento, anzi piuttosto peggiorando, avendo sentito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e toccò il suo vestito, poiché diceva: «Se solo tocco le sue vesti, sarò salva». E immediatamente il flusso del suo sangue si stagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quel male. E subito Gesù, avvertendo in se stesso che una potenza era uscita da lui, voltandosi nella folla disse: «Chi mi ha toccato i vestiti?» E i suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe da ogni parte e dici: chi mi ha toccato?» Ma egli guardava intorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Allora la donna, paurosa e tremante, sapendo quanto era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre egli stava ancora parlando, vennero alcuni dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «La tua figlia è morta, perché importuni ancora il maestro?» Ma subito Gesù, udito ciò che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, credi solamente». e non permise che alcuno lo seguisse all'infuori di Pietro e Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. E giunto a casa del capo della sinagoga, vide un gran trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Ed entrato disse loro: perché fate tutto questo chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme. E quelli lo deridevano, ma egli, messili tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e coloro che erano con lui, ed entrò laddove giaceva la fanciulla. E presa la fanciulla per mano, le disse: Talita cumi, che tradotto vuol dire fanciulla, ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Ella aveva infatti 12 anni. Ed essi furono presi da un grande stupore. Ma egli comandò loro con fermezza che nessuno lo venisse a sapere. Poi ordinò che gli si desse da mangiare alla fanciulla. È un episodio, come dicevo, molto conosciuto, che mette in risalto situazioni gravose dove l'uomo oramai non aveva più nulla da poter fare e quindi a un certo punto l'intervento di Gesù e tutto cambia in un momento. Però quello che andremo ad analizzare questa sera non è tanto la guarigione, non è tanto la resurrezione, quanto i commenti che si sono venuti a creare intorno a questa situazione e quanto questi commenti abbiano più o meno agevolato o ostacolato, se così possiamo dire, l'opera di Dio. Ma non è tanto ostacolare l'opera di Dio quanto predisporre l'uomo a ricevere rivelazione di chi è Gesù e poter vedere l'opera di Dio manifestarsi. Io ho preparato questa, io ho suggerito, però poi Vito è stato bravissimo nel preparare questa tabella, che vedremo più volte, dove vengono da subito, possiamo anche leggere tutti quanti insieme, li leggeteli voi, poi li prenderemo un po' alla volta, tutte le botta, la botta e risposta, insomma, che vengono date fra le persone, soprattutto nel momento in cui Gesù si trova vicino alla casa della ragazza. Ma facciamo un passo indietro, il capo della sinagoga. Ora, in sinagoga non è che si parlava, credo, così tanto bene di Gesù. Cioè la fama di Gesù nella sinagoga urtava i capi della sinagoga. Certamente, questa è un'analisi contestuale, non c'è scritto nulla nella Bibbia, però se leggiamo un po' nei Vangeli capiamo che in genere la sinagoga, posto dove i religiosi del tempo si ritrovavano, il posto dove i detentori della legge, della verità si ritrovavano, hanno più volte commentato malamente quello che Gesù faceva, il suo operato. Quindi capiamo che Jairo probabilmente era abituato a sentire dei commenti spregevoli o comunque di dubbio nei confronti di Gesù. Eppure a un certo punto questo uomo sceglie di andare da Gesù. Che cos'è accaduto? Io credo che lì si è iniziato, in qualche momento prima, un processo di conversione in Jairo. Perché se Jairo è corso da Gesù con la fede certa che Gesù era l'unica soluzione al problema di sua figlia e che Gesù era l'unico che poteva salvare e guarire sua figlia, allora significa che Jairo aveva già aperto il suo cuore a Gesù, aveva già predisposto se stesso a credere che Gesù era la soluzione. Jairo ha incominciato a parlare qualcosa di diverso rispetto probabilmente agli stessi commenti che lui aveva fatto su questo tipo strano, che si proferiva figlio di Dio, Messia, il Salvatore. Mettiamoci un attimo nei panni della società di quel tempo. Quanti di noi avrebbero creduto che quello era il figlio di Dio? Io non so se avessi avuto, come dire, la possibilità di poter essere lì insieme a quelle persone, ma in quell'epoca, se da subito avrei creduto che questo era il figlio di Dio. Sono molto scettico. Quando vedo queste persone un po', dico, questo è il ciarlatano di turno. Non è facile giudicare i farisei. Scusa, ma questo viene ora, noi detentori della legge, noi che abbiamo studiato, e i capi della sinagoga, e nel tempio e tutto il resto, noi eravamo il punto cardine dell'autorità della parola di Dio, fino ad allora scritta, e ora viene qualcuno che sembra rivoluzionare un po' il tutto. Quindi capiamo che quei commenti erano molto, molto giusti, tra virgolette, per il contesto all'interno del quale si viveva. Conoscendo Gesù, e credo che questo sia successo a Jairo, vedendolo, sentendo osservandolo, probabilmente lo avrà visto anche operare i miracoli, il cuore di Jairo si è aperto e ha permesso di poter fare una confessione di fede. Tu sei colui che può salvare e guarire mia figlia. Gesù prende questa confessione di fede lì, in un momento, senza stare a dire ma chi sei, chi non sei, ma credi in me, non credi in me. Gesù sapeva che quell'uomo aveva una fede che gli permetteva di poter fare una richiesta del genere. Un uomo che si è arreso, inginocchiandosi e implorando che Gesù potesse far questo. Gesù accetta e va. Però, mentre andava, si viene a creare una situazione che noi, se ci fossimo trovati lì, avremmo definito un intoppo. Una donna che per 12 anni aveva questo flusso di sangue. Io mi vedo lì a dire, scusa, hai sofferto per 12 anni, non potevi aspettare 12 anni e qualcosina ancora? Visto che c'era una situazione di emergenza. Io credo che qualcuno l'avrà pensata questa cosa. Ripeto, non è scritto, è il mio pensare al contesto. Qualcuno avrà detto, ma ti pare che c'è una situazione di emergenza e tu proprio ora devi andare a toccare il vestito, lo tocchi fra mezz'ora. Non cambia nulla. Se hai fede, toccalo fra mezz'ora. Questo è il giudizio umano, un intoppo. Ma in realtà non era un intoppo. In realtà era uno di quegli intrecci che Dio crea affinché gloria gli possa essere data. Pensate che nel giro di pochissimo tempo due miracoli eccezionali accadono. Gesù, Dio, vengono glorificati. Non era un intoppo, era un ulteriore esempio per me e per te per poter imparare che cosa può la fede. Quella donna aveva una fede tanto da dire che a me non interessa che Gesù preghi per me o che mi imponga le mani, come aveva chiesto ad esempio il capo della sinagoga. A me mi basta toccare il lembo del vestito e lì so che sono guarita, diceva questa donna. Che fede! Una fede fuori dal normale, potremmo definire. Ma poi capiamo come si produce questa fede. Andiamo avanti. Gesù lascia stare i commenti. A un certo punto nella Bibbia c'è scritto, perché Gesù fa la domanda a chi mi ha toccato e i discepoli saputelli. Ti pare, nella folla, ma lui era convinto, sapeva che cosa era accaduto. Un commento fuori, che insomma se la potevano pur risparmiare sti discepoli, avendo già imparato un po' chi era questo Gesù. Eppure a un certo punto arrivano questa brutta notizia. A una bella notizia, ora mettiamoci sulla linea del tempo, ad una bella notizia, una donna guarita, in quel momento arriva la notizia, una ragazzina morta. Che giudizio avresti espresso in una situazione del genere? Pensaci. Io ho il mio giudizio, però voglio dire, non lo voglio condividere. Direi, e Gesù è sbagliato, scusami. Tu che conosci tutto, non potevi aspettare un attimo? Potevi correre a casa di quella ragazza e guarirla e poi tornavi da questa donna? Perché io non sapevo ancora in quel momento che cosa sarebbe potuto accadere. Eppure, se avessi avuto fede in Gesù, avrei potuto credere che lui poteva fare quello e aggiungere anche un altro miracolo, sempre in quel frangente di tempo. Però il nostro pensare umano è così spontaneo a volte che ci porta a parlare, ad esprimere i giudizi. E nel nostro parlare, molto spesso, come dice la Bibbia, si cela la colpa. Parliamo più morte che vita. Gesù arriva sul posto e trova una situazione straziante. A quel tua figlia è morta, che può suonare molto omologa a una frase che noi potremmo dire del tipo non c'è più nulla da fare per me, non c'è più nulla da fare per la mia situazione, non c'è più nulla da fare per la mia malattia, io sono schiavo di questo peccato e non riesco a liberarmene. Questa è l'entità di quella frase, tua figlia è morta. Gesù risponde, se possiamo rimettere la scheda, risponde all'uomo direttamente, non temere, credi solamente. Gesù sposta l'attenzione. C'era una situazione reale, era reale, c'era un morto. I genitori, pensate a un figlio, a una figlia che vi muore. La situazione è tragica. È ovvio che intorno le persone si disperino, è ovvio che ci sia pianto e sofferenza. Ma Gesù prende, io lo vedo proprio così, come se quasi l'avesse fatto fisicamente, prende la faccia di quell'uomo, dice guardami negli occhi, credi solamente, non temere. Gesù era consapevole che la situazione era al limite. La nostra fede viene provata, questo è un esempio di fede provata, ma Gesù sa benissimo qual è il limite oltre il quale non si può andare. E Gesù sapeva che quei genitori erano al limite. La loro fede non poteva più essere ancora ulteriormente provata. Questo è un mio pensare, ma il fatto che Gesù intervenga ed è scritto subito, tempestivamente, cioè lui sente dei commenti, dice no, fermati, non temere, credi. Gesù ci sta insegnando e ha voluto insegnare qualcosa a quell'uomo e noi da lì prendiamo l'insegnamento per noi stessi. Sposta lo sguardo dal problema, risintonizzati subito su Gesù, capisci lui cosa sta vedendo, lui cosa sta dicendo, lui cosa sta parlando, perché intorno è facile trarre l'analisi del dato di fatto, della realtà, una ragazza morta, bisognerà pensare al funerale, ci sarà la sofferenza, il pianto e il lutto, poi il tempo passerà e la sofferenza ogni tanto ricomparirà, il ricordo di questa ragazza riaccende la ferita, riapre la ferita, riaccende la sofferenza. Questo si pensa normalmente, ma Gesù dice no, aspetta. Quell'uomo, in quelle parole di Gesù, parole di vita, è riuscito a trovare la forza, il sostegno necessario per poter continuare a sostenere e mantenere la sua confessione di fede. Io credo, Gesù, che tu puoi risolvere il problema, perché questa era la sua fede iniziale e questa fede viene sostenuta da Gesù, che proferisce parole di vita. È molto molto chiaro il contrasto fra le parole di morte che perché continua a dar fastidio al maestro, come a dire basta, basta pregare Luigi per quella situazione, basta sperare che tutto possa cambiare, basta. Ma Gesù dice a te, dice a me, non temere, aspetta, continua ad aver fede. Quell'uomo, quella donna, lì si trovavano davanti a un bivio. Potevano dire, Gesù, vabbè, è fatta, lascia stare. Io penso che se avessero detto una cosa del genere, non so se Gesù, lui certamente era nella facoltà di poter continuare il miracolo, però non so se poi effettivamente lo avrebbe fatto o meno. Non lo so, è un mio pensiero. Ma sentirsi sostenuti dalle parole di vita di Gesù hanno creato in quell'uomo, in quella donna, nei genitori di questa ragazza, una fede capace di poter andare oltre i limiti, oltre il possibile. Intorno ancora derisione, al momento soprattutto in cui Gesù dice «Ma perché poi fate tanto chiasso e piangete? La fanciulla non è morta, ma dorme». Una prospettiva fuori dal normale, ridicola. Io, nel mio essere raziocinante, avrei detto, senti, qua il battito non c'è più. Che dice a fare che dorme? La gente lì, i criticoni, si sono visti servire un'occasione per potersi prendere beffe di Gesù. E Gesù lì interviene, e interviene in maniera ancora più drastica. Se prima ha detto a quell'uomo, guardami, osservami, stai concentrato su di me, non temere, abbia ancora fede. A un certo punto Gesù interviene ancora in maniera più drastica, mettendo a tacere quelle voci. C'è scritto che dice, andate fuori, via, andatevene fuori da questa stanza, da questa casa. È drastico. Non dice, beh ragazzi, forse stiamo un po' esagerando, beh, vediamo un po' allora di stare tranquilli. No, dice, basta, ora ve ne andate. Conoscete quella voce nel nostro orecchio che ci dice, se ce la farai, se Dio è proprio capace di risolvere questa situazione. Sì, io so che lui è potente, che lui è il Dio delle cose impossibili, però questa situazione è proprio impossibile, impossibile. Non lo so poi. Oppure quella voce che si insinua nel nostro orecchio dicendoci non vali niente, non sei capace, Dio non può servirsi di te. Che ora estendiamo un attimo il campo. Quali sono le parole che proferiamo? E che proferiamo soprattutto a noi stessi. Quando Luigi dice a se stesso, non so se sei capace di, in realtà sta dando ascolto ad una voce che è maligna. Perché è una voce di morte, è una voce di distruzione. Non c'è la via intermedia tra le due, c'è vita o morte. Il classico bianco e nero. Se io incomincio a dare ascolto a quelle voci che si insinuano e che vanno a demoralizzarmi, che vanno a distruggere l'opera fantastica che Dio sta costruendo nella mia vita, io lì sto dando ascolto ad una voce che viene dal diavolo, che viene da Satana, che ha un carattere maligno. Gesù cosa ha fatto davanti a quelle voci che stavano proferendo parole di morte? Shh, fuori, via. Io ho incominciato, da quando ho incominciato a preparare questo messaggio, quando Dio mi ha ispirato a riguardo, sto incominciando proprio ad utilizzare queste parole. Shh, basta, stop. Perché lì c'è l'autorità, non di Luigi, di dire a un pensiero, stop, non mi influenzare più, ma c'è l'autorità nel nome di Gesù di poter dire stop al diavolo. Stop ai pensieri di morte che tu suggerisci, stop ai pensieri scoraggianti, demoralizzanti, di demolizione che metti nella mia vita. Cosa accade? Che Gesù manda fuori e tira in quella stanza una categoria specifica di persone, i genitori e i tre che aveva portato con sé, persone che avevano fede in Gesù, persone che stavano credendo ancora che l'opera impossibile era possibile. Gesù ha fatto tanti altri miracoli in situazioni di caos e questa volta sceglie però di crearsi una situazione di riparo, di pausa, di silenzio, non perché lui ne avesse bisogno, attenzione, io credo che qui ha voluto sostenere certamente quei genitori, io credo molto in quell'intervento singolo sul singolo che Gesù ha fatto in quel momento su quella coppia di persone che erano provate davvero, ripeto, al limite, ma ci stai insegnando anche qualcosa. Quando ti rendi conto che le situazioni intorno sono oltre, è inutile che ci facciamo forti delle nostre capacità di dire io ce la posso fare, io ce la faccio a restare saldo, no, perché non ce la facciamo, questa è la verità. Gesù ci insegna, trova un posto, che può essere fisico, ma è più un posto interiore, io credo, che ti permetta di poter stare con me, dove la mia presenza ti dà il sostegno, ti dà quella fede necessaria, ti equipaggia a vivere quell'esperienza nella maniera giusta, continuando a proferire parole di vita che noi conosciamo, perché la Bibbia, che leggiamo benissimo e che conosciamo benissimo, è piena di parole di vita. Lo stacco sta dal momento in cui quelle parole di vita diventano le mie parole di vita. Io sono capace di poter proferire le parole di vita che sono nella Bibbia per me stesso, per la mia vita, per le mie situazioni. Da Luigi, persona, uomo, non sono capace. Posso essere capace di proferire parole di vita, e questo è sempre Gesù che lo dice, se io nel mio cuore ho un buon tesoro. Matteo 12, 34, 35, Gesù dice, poiché la bocca parla dell'abbondanza del cuore, l'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora non so quanto tu sei buono, ma io non sono buono di natura, perché la condizione di peccatore che è nel mio essere, è nella mia persona, non mi permette, non mi dà la sicurezza che io possa essere davvero un uomo buono con dentro un buon tesoro che mi permette di parlare parole buone su me stesso, sugli altri e sulle situazioni intorno a me. La necessità, l'urgenza, sta nel momento in cui ci rendiamo conto che c'è solo una fonte dalla quale sgorgano parole di vita e quello è Gesù. C'è una descrizione fantastica di Gesù fatto nei primi versi di Giovanni. Non analizziamo il brano perché vuol dire ci vorrebbe, non so, non sarei forse neanche capace, è un brano molto complesso. Però a un certo punto Gesù viene presentato come la parola. Nella versione greca il termine logos. Noi abbiamo tradotto logos con parola, ma in realtà è una versione molto ridotta della ricchezza di significato, del valore semantico che c'è in quella parola logos. Perché logos è molto più di parola, è un discorso, è un ragionamento che ha bisogno delle parole per poter essere espresso. E poi è particolare perché in se stesso produce l'immaginazione di quello che significa. Cosa vi sto dicendo? Se io vi dico gelato, che cosa vedete davanti ai vostri occhi? Un gelato, lo vedete? Riuscite a vederlo? Potete anche scegliervi il vostro gusto, probabilmente. Se io vi dico vita, cosa vi viene in mente? Deve venire soltanto in mente Gesù. Non deve venire in mente nient'altro. Perché in quei versi Gesù di Giovanni si presenta come la parola attraverso cui ogni cosa è stata fatta e per cui ogni cosa è stata fatta, si presenta come la vita. Gesù poi successivamente si presenta ancora come la via, la verità e la vita. Se io dico vita, noi davanti ai nostri occhi, in quanto logos, in quanto parola che in sé ha l'immagine, dobbiamo vedere Gesù. Non possiamo vedere altro. E solo se io ho quella vita dentro posso proferire reali parole di vita. Altrimenti, mi dispiace dirci, proferiamo pseudo parole di vita. Sono parole motivate dalla nostra positività, dal nostro sforzo, che è buonissimo. C'è tanta gente positiva fuori da questa struttura, che dice cose buone, che ha speranza per il futuro. Ma siamo effettivamente certi che siano parole di vita? Cioè quelle parole che sgorgono dal fatto che Gesù occupa tutto lo spazio del cuore, tanto da poter produrre reali parole di vita? Gesù ha fatto uscire tutti quanti da quella stanza. Ha mantenuto soltanto persone che avevano fede in Lui, che credevano in Lui e alle quali voleva insegnare, e attraverso loro insegna a noi che la sua presenza è il punto fondamentale del poter vedere la morte cambiata in vita. Io e te abbiamo creduto in Gesù e abbiamo creduto che Lui ci ha portati dalla morte alla vita. I battesimi stamattina, le domeniche scorse, sono testimonianza reale, concreta, del fatto che persone si rendono conto della propria condizione di morte nel peccato e scelgono la vita e la scelgono tramite Gesù. Ma quelle scelte poi devono seguire delle azioni che sono motivate dai nostri pensieri. E i nostri pensieri sono motivati da che cosa? Da quello che abbiamo nel cuore. Perché noi principalmente parliamo noi stessi. Ancora prima di parlare agli altri, noi parliamo noi stessi. E quindi la domanda che io faccio a Luigi è: Luigi, ma che cosa ti dici? Che cosa ti dici della tua vita? Che cosa ti dici del servizio che hai in chiesa? Che cosa ti dici del fatto che domenica 24 ti è stato chiesto di poter portare un messaggio alla chiesa? Che cosa ti dici riguardo il tuo lavoro? E così potrei continuare. E la stessa cosa puoi fare tu. Che cosa dici a te stesso? E poi fatti un'altra domanda. Facciamoci un'altra domanda. E Dio, delle stesse cose, che cosa dice? Se coincidono, allora abbiamo, come dire, quello spiraglio in più di luce che stiamo parlando parole di vita. Ma se non coincidono, la domanda è: chi sta abitando nel nostro cuore? Perché qui si tratta di dover mandare fuori quelle voci contrastanti, di mandare fuori quelle voci fuori dalla verità proferita da Gesù. Il coro che abbiamo intorno è fantastico. Non sono solo le persone, è la TV, lo diciamo tantissime volte, è internet, i social network, il vicinato, ognuno propone la sua visione delle cose. Noi siamo bombardati da voci che, mi dispiace dire, sono contrastanti con quello che invece dice Gesù. E allora se a noi è chiesto di poter essere mandatari per Gesù di salvezza, per poter portare le persone alla salvezza, se noi dobbiamo essere, vogliamo essere l'immagine di Cristo in questo mondo, se noi vogliamo essere luce per questo mondo, è importante che il nostro essere incominci a rispecchiare da quello che ci diciamo, prima ancora di parlare, quello che ci diciamo rispecchi quello che Gesù vorrebbe dire di noi, quello che Gesù vorrebbe dire delle situazioni, quello che Gesù vorrebbe dire degli altri. Al lavoro mi sta risultando un tantino difficile incominciare a pensare bene di determinati ragazzi. Non entro nel merito, anche perché potrebbero sentirmi. E loro lo sanno. Okay? Insomma, ho perso la fiducia in tanti e mi sono dovuto ricredere. Chi sei tu, Luigi, per perdere la fiducia in un ragazzo? Senza poi tener conto, ho fatto degli errori stupidi, del contesto, senza poi tener conto di che cosa hanno subito, di che cosa hanno vissuto, di qual è la loro normalità. Ed è facile a te, perfettino, dire: beh, tu con me non puoi avere nulla a che fare. E se Dio facesse una cosa del genere con me? Ma io so che Lui non la fa, perché mi ama. Ed è l'amore che costringe Dio ad amarmi, che non so di che natura sia, lo posso solo immaginare praticamente, è lo stesso amore che io voglio imitare nell'amare me stesso e nell'amare gli altri. Io concludo in questa maniera. Vuoi amarti come Dio ti ama? Vuoi parlare di te stesso come Dio parla? Ok, semplicemente dagli spazio. Di a Gesù che possa venire nel tuo cuore. Il frutto dello Spirito Santo è chiaro, è fatto di pace, gioia, gentilezza, pazienza, mansuetudine, autocontrollo, fede, amore. Tutto questo è la conseguenza del fatto che Gesù vive dentro di noi, che lo Spirito di Dio alimenta il nostro essere uomini, il nostro essere persone. E capite che tutto quello che ho elencato del frutto dello Spirito Santo produce dei benefici immediati nella persona, ancor prima che intorno. Produce beneficio a noi stessi. Se io sto bene, in realtà, posso incominciare con Dio, bene con Dio, questo è importantissimo. Posso incominciare a proferire parole di fede, parole di vita, sulle situazioni intorno a me, sulle persone intorno a me che sono sbagliate, che non vanno, che sono situazioni di morte. Ma se ho dentro di me la certezza che c'è vita e che posso proferire parole di vita, che Dio si serve di me per poter proferire parole di vita, allora sì che le cose cominceranno a cambiare, perché io cambio. In una stanza dove c'era Gesù, due persone, due genitori che avevano fede, tre discepoli che credevano nell'opera di Gesù, la morte è stata tramutata in vita. L'ultimo, e concludo davvero qui, nella scheda c'è presente che a un certo punto si stupirono le persone. E Gesù che dice: non parlate di questo. Vi pare mai possibile che non si sarebbe saputo in giro? Perché Gesù dice con fermezza: fate in modo che nessuno lo sappia. Lì sta dicendo di nuovo: non fate chiacchiericcio. Perché Gesù non vuole creare stupore. Gesù non cerca ammirazione. Questo è qualcosa che ci parla chiaramente che il messaggio di salvezza affascina. Il messaggio di salvezza crea stupore. Un miracolo crea clamore. Ma Gesù non cerca questo. Gesù vuole entrare nella vita delle persone. La donna e la bambina hanno ricevuto salvezza e guarigione, rispettivamente resurrezione. Gesù era concentrato sulla salvezza delle vite di queste persone, non sull'evento, non sul miracolo straordinario. Ecco perché dice: non fate chiacchiericcio. Valutiamo il nostro parlare, che il nostro parlare sia un parlare la vita, sia un parlare proferire parole che vengono ispirate dallo Spirito Santo in noi per poter benedire il prossimo, per poter benedire anche noi stessi, perché anche noi abbiamo bisogno di benedizione. E la benedizione di Dio può arrivare anche attraverso quello che noi ci diciamo. Proverbi 12:14. L'uomo sarà saziato di beni per il frutto della sua bocca. Non è autonomia, non è essere autoproducenti qualcosa di buono per se stessi, ma se nel nostro cuore abbiamo la certezza che Dio occupa tutto lo spazio, inevitabilmente la nostra bocca incomincerà a proferire parola di vita su noi stessi e la benedizione di Dio riempirà la nostra vita. Questa sarà la mia preghiera per voi e per me, che Dio, che lo Spirito di Dio possa riempire il nostro cuore, togliendo, mettendo a tacere ogni voce, ogni spirito maligno, ogni situazione che può deconcentrarci e distogliere la nostra attenzione da Gesù. E guardando a Lui, dando a Lui tutto lo spazio, che la vita fluisce davvero attraverso la nostra vita. Preghiamo. Padre Santo, grazie. Grazie per la Tua parola. Grazie perché Tu hai riempito i nostri cuori della Tua presenza, ci hai dato fede di poter credere in Te, Signore Gesù, che c'è salvezza, che la redenzione viene nel nome Tuo nelle nostre vite. Ma noi vogliamo andare oltre, noi vogliamo andare oltre e vivere la pienezza che c'è in Te, Signore Gesù, nostra vita, nostra ragione di vita, il punto iniziale e la fine del nostro esistere. E noi crediamo, Signore, che per quanto possa essere complicato, umanamente parlando, vivere una vita qui sulla terra, noi vogliamo avere lo sguardo puntato in alto e riconoscere che in Te e che nella pienezza Tua in noi c'è vita per noi, c'è vita in abbondanza, c'è gioia, c'è amore, c'è pace, c'è autocontrollo e c'è la speranza di una vita per sempre insieme con Te, Dio. E io credo, Signore Gesù, nel nome Tuo, credo nell'autorità che c'è nel nome Tuo per poter proferire sulle nostre vite parole di fede, parole di liberazione. Come Tu hai detto in quella stanza, alzati, allo stesso modo questa sera puoi dire a noi: sii guarito, sii liberato, sii salvato, sii trasformato, e ti diamo ti diamo l'autorità di mettere a tacere nella nostra vita ogni voce contrastante, ogni nostro pensiero, ogni situazione che ci distoglie, ogni voce fuori dal tuo controllo che sta condizionando e influenzando le nostre giornate. Noi vogliamo vivere appieno la tua vita, vogliamo vivere appieno la benedizione che c'è nel poter proferire parole di benedizione che sgorgono direttamente da dentro di noi, perché tu sei con noi, tu sei in noi e il tuo spirito si muove in noi. Io proferisco questa confessione di fede sulla mia vita e sulla vita dei miei fratelli e delle mie sorelle, che tu, Signore Gesù, sei il centro della nostra vita, che tu, Signore Gesù, hai autorità sulla nostra vita, che tu, Signore Gesù, sei nel controllo della nostra vita. Ti diamo la libertà di fare piazza pulita, di sgomberare le stanze del nostro cuore, di prenderne possesso e di impadronirtene pienamente, affinché noi possiamo godere della pienezza della tua presenza in ognuno di noi. Preghiamo questo nel nome tuo santo, Signore Gesù. Amen.